Arminda mio sole, precipitosamente, come a sua principessa e sua regina, il continuo bel fiore a voi s'inchina. Contino, vi son serva e vi accetto nel cor, non mi dispiace. Ordite un poco, d'Arminda, mia nipote, vostra sposa novella, Contino, che vi par? Superba e bella. Bella fronte, begli occhi, belle guance, bel naso, bel bocchino. A voi siete, mia cara, un gel somino. Adagio, adagio, sapete che sono io? Voi siete, o cara? Io sono capricciosa cervellina insolente. O piacere, me ne consolo. O pure mare faccio. Viva, viva. Benissimo. Adopra anche il bastone. Meglio, meglio. Brava, brava. Bravissima. Che grazia. Che portento, che scioltezza. Io mi sento rapire. Ci siamo intesi.